Podcast numero uno. Questo è l'undicesimo tentativo. E cavolo, non credevo sarebbe stata così difficile. Sono curioso di vedere quanti di voi ascolterete il mio podcast, ma ancora più curioso di sapere se riuscirò a pubblicarlo online. Anyways, sono le 4 di un pomeriggio di gennaio, sono nella mia cameretta e sto registrando con il microfono del mio iPhone. Il mio nome è Eugenio Compagnone e quello che state per sentire è essenzialmente la mia vita. La vita di un ragazzino di 17 anni, con tanti sogni, forse troppi, che deve ancora capire che cosa farne della propria vita. Dunque, in questo primo video vi racconto un po' di me. Vi ho già detto di avere 17 anni, ma non vi ho detto di andare al quarto anno di liceo scientifico. E posso dire di essere abbastanza brava a scuola. Molti mi chiedono e si chiedono quale sia il segreto per fare bene a scuola, per prendere voti alti. Semplice, rispondo, studiare H24 e questo è il mio segreto. A parte gli scherzi, penso che a scuola, come nella vita, sia facile avere successo, basta impegnarsi. Anche se in realtà ultimamente ho capito che la scuola non serve granché nella vita, non ti insegna a vivere. Purtroppo l'ho capito solamente adesso, troppo tardi o troppo presto? Non lo so. Il problema è che proprio non ci riesco a non essere il migliore. È come se io vivessi di quei voti. La scuola è la mia vita. E questa è una frase un po' brutta sentita dire da un ragazzino di 17 anni. Mi chiedo spesso se un giorno riuscirò a diventare l'uomo di successo che tanto voglio diventare o finirò per lavorare per il tipo di turno che ha abbandonato la scuola e ha fatto una fortuna. Ma tra i libri, le penne e la scuola ho anche altri progetti. Ho provato a fare video su YouTube l'anno scorso. È stato un totale fallimento, ma almeno ci ho provato. Poi, da un anno a questa parte, sono diventato uno sviluppatore. Ho iniziato a programmare, ho fatto diverse applicazioni, due delle quali sono attualmente disponibili su Google Play Store. E sono molto entusiasta perché una delle due ha raggiunto ormai 1000 downloads e l'altra è addirittura in tendenza, in una classifica di Google Play. Sono molto soddisfatto perché ho dimostrato a me stesso che anche senza avere le competenze in quel determinato campo, con una buona dose di forza di volontà ci sono riuscito. Non vi nascondo che è stata un'emozione vedere la mia prima applicazione lì, su Google Play Store, con il mio nome accanto. Ah, nella vita, tra i compiti e i computer, trovo anche il tempo per andare in palestra. Questo è Eugenio. Se vi interessa farvi i fatti miei, continuate a seguirmi e ad ascoltare i miei podcast. Ci vediamo, anzi, ci sentiamo al prossimo episodio, gente. Bye bye.